via. Un bambino giocava, era l'ora dell'Ave Maria. È una musica lassù, mi chiamò, sprofondò nel mio cuore cantando dentro l'anima. Tu ragazzo non puoi stare al conservatorio, devi dare ai tuoi sogni l'addio. C'è bisogno anche di te, figlio mio, così disse mio padre quel giorno mentre andavo via. Un uomo va finché lo vuole Dio, ma tu ritornerai, lo so ragazzo mio, dentro di te la musica è un'anima, non lo scordare mai. Professore, addio. Dei ricordi un rosario, ma per caso dal conservatorio passa un uomo e resta là a sentire una musica dolce morire dentro l'anima. Un uomo va là dove vuole Dio, ma sempre porterò un sogno antico e mio. Dentro di te la musica è un'anima, non lo scordare mai, no professore. Addio.